esplosione, quella che vedi tu dietro il 2000, quella è una seriale, è una banale seriale. Su quella seriale lì, se tu ti scarichi il programma della Kenwood, dal sito Kenwood, stai attento perché se te lo scarichi c'è anche una password nel file del pazzo. Una volta che l'hai installato, di lì colleghi una seriale al programmino, le metti la porta COM che corrisponderà alla porta del TS2000, e se ti guardi il menu anche il TS2000 ha la sua configurazione interna per la porta seriale, e di lì praticamente puoi controllare da remoto da computer e il TS2000. Poi, ripeto, se vuoi andare in digitale, eccetera, con la presa che c'è lì, AC e ACC2, se non ricordo male, ACC1 adesso non mi viene, puoi fare tutto quello che ti pare. Guarda, proprio sul 2000 c'è l'imbarazzo della scelta, per dirtene una, il 2000 è talmente flessibile che io avevo fatto dei test di ripetizione in cross band, perché quello fa anche il cross band, il ripetitore praticamente, e riusciva a farmi passare come ripetitore il D-Star. Una cosa che mi ha meravigliato anche a me, perché è una cosa estremamente difficile, però insomma ha fatto anche quel lavoro. Una radio per l'epoca all'avanguardia, quindi sì, è molto generosa, e per chi vuole giocare è molto, fa molte cose, fa il packet, tutto bene, soprattutto con una potenza non indifferente. Ma una domanda, interfacciando la radio, tu la vuoi attaccare al computer, diciamo la radio lì con i sistemi giusti, adeguati, cavi eccetera eccetera, programmi, la pagina che ti appare sul computer, cosa ti appare? Voglio capire. Allora, esempio, prendiamo il PSK, dai, il più semplice, ma sempre il più difficile da trovare, perché tutti si stanno fissando con questa maledizione dell'FT8. Quindi prima di esempio, guardate, tappare la schermata del programma. In questo programma si può anche scaricare, guarda, uno dei migliori è quello di Patrick, ed è molti PSK, com'era? Molti PSK, sì, tu guardi molti PSK, l'ultima versione, la parte amatoriale è tutta gratuita, la parte professionale ti permette lo stesso di ricevere, però per solo 5 minuti, credo, una cosa del genere. Tieni presente che il TS2000, siccome, ripeto, è un apparato di sto rispetto, potresti ricevere anche satelliti, quelli che sono a 137 MHz, che sono i satelliti meteo, i satelliti anche di posizionamento navale, l'Orbicon, se non ricordo male, ma comunque se tu lo scarichi quel programma, c'ha tutte le istruzioni, è fatto veramente, veramente bene, c'è da tanti anni, ogni anno che passa si rinnova. E con quel programma lì ti utilizzi la tua bella scheda audio per ricevere e per trasmettere. Anche perché il programma stesso ti comanda tramite un banalissimo circuitino fatto da un solo transistor la seriale per mandare l'apparecchio in trasmissione, a meno che non utilizzi il Vox, ma quella è una scelta tua. Sì, sì, no, ma io voglio capire una cosa, se io attacco l'apparecchio TS2000, lo attacco al computer, posso vedere le informazioni che mi saranno adesso, la frequenza di ricezione, il segnale, le funzioni che ho inserito, tipo come sono le nuove chiavette SDR, lo puoi vedere direttamente la pagina ingrandita, anziché avere il piccolo display, prenderti a pieno schermo sul computer, sul monitor. Guarda, tu sul monitor del computer vedi tutto quanto, essendo l'apparecchio che in quel caso lì comanda, l'apparecchio rimane indipendente, non so se mi spiego, l'unica cosa che tu devi fare sull'apparecchio è impostarla il modo, quindi USB, AM, FM o quello che ti pare. E poi invece sul programma devi fare la decriptazione di quello che riceve la radio, praticamente. Quindi se sarà un sitor ti toglierà fuori il sitor, se sarà un RTT ti toglierà fuori l'RTT. Con un minimo di esperienza poi vedrai quanto è vasto il mondo sia dell'HF ma anche delle VHF e company. Però ripeto, una cosa banale veramente, tu direi vabbè, ma voi progettate anche circuiti eccetera eccetera, in questo caso no, è a livello, è a portata di tutti, di chiunque, senza andarsi a comprare interfacce costose o tutte quelle belle cose lì. Sì, no, ma quello che volevo capire, perché io lo volevo vedere sul monitor, allora io col mouse ci clicco sopra, voglio andare 27.540, un esempio, USB, col mouse clicco sopra quella pagina lì, su quell'icona, e lui riesce a manovrarlo col mouse, quello che voglio dire. Allora, quell'operazione lì avviene tramite seriale. Se tu ti colleghi il programma che ti ho detto, che è sul sito della Kenwood, tu te ne installi sul computer, ti colleghi alla radio, la puoi accendere e spegnere, ti apparirà una grande radio sullo schermo con le frequenze, con tutti i tasti, noise blank, il processore, trick and track, potenza, memorie, e da lì puoi gestire la radio in maniera totale. Se invece ti colleghi alla scheda audio, la scheda audio ti servirà a quel punto per decifrare segnali che la radio riceve, i segnali digitali, stiamo parlando, ma anche la voce, se tu devi registrare la voce di quello che arriva, stessa cosa, non cambia niente, tu stai sfruttando la tua scheda radio del computer, la tua scheda audio del computer, per fare tante cose, tra cui registrazione, rimando dalle registrazioni, vedere anche l'analisi del suono, per dire, insomma tantissime cose. Anche eventualmente lo spettro, o non è predisposto nel programma? No, lo spettro è un altro discorso, l'analisi di cui tu parli la fanno attualmente molti apparati amatoriali, la migliore credo che sia quella dell'ICOM sicuramente, che ti dà la possibilità di una scansione real time, quindi istantanea, di una determinata porzione di banda, ok? Però quella lì la fa l'apparecchio, perché l'apparecchio c'ha lo schermo. Se tu vuoi farla su un computer, quell'apparecchio deve avere una particolare uscita, che adesso non mi ricordo, comunque tipo una RCA o una cosa del genere, che si collega a un monitor e di lì ti dà tutta la gestione di quello che stai dicendo dell'analisi di spettro, ecco. Le chiavette lo fanno perché essendo delle cose semplici, integrate, ovviamente di lì fatto sul computer la chiavetta non fa quasi un tubo, quindi è chiaro che quelle ce l'hanno se ti interessano ad esempio. Oppure, come ce l'ho io, un ricevitore che ti fa l'analisi della banda da 0 a 50 MHz totale, che è uno spettacolo, che è una marca australiana, che è la Win Radio. Lo fa anche il Perseus, che è un apparato italiano, ma sono ricevitori. No, vabbè, quello lo faccio anche io, ho due misuratori di campo professionali, uno della Unom più recente, e l'altro della Promax, e quelli ti fanno, ti sceglie la banda, quello fa da, mi sembra che faccia da 5 MHz fino a 2500, ti imposti la larghezza, perché voglio farla da 20 a 35, attacco, mi dà tutte le portanti che ci sono in quella fascia di banda. No, ma volevo capire se era possibile farla anche su quel tipo di radio che abbiamo nominato prima. Guarda, di lì, se parliamo ad esempio del multipsk, del PSK come sistema di ricezione e trasmissione, si dà una porzione di banda che sia in PSK, in CV eccetera, quindi una porzione di banda audio che lui sta ricevendo dalla radio, quella porzione audio ti può fare vedere che ne sono 20-30 emissioni che tu senti, tu in audio le senti, senti un rumore e basta, però puoi vedere, sono tante trasmissioni, quindi ci clicchi sopra, la scia che vedi, no? quella barra che cammina mentre viene attuata la trasmissione, e lui se è configurato bene la decifra istantaneamente e tu puoi anche rispondere al corrispondente. Questo per quello che riguarda il PSK. Se invece un'emissione CV noterai la cosa che noti subito, che se vedi questa linea che passa e magari poi a fianco ce ne sono altre 3 o 4 che sono tutte racchiuse in una certa larghezza di banda. Adesso non mi ricordo quanto è la larghezza di banda di una scheda normale, tipo su un blaster, quella classe lì. Tu lo saprai forse anche meglio di me, dato che ti occupi di audio. E riproduce in quello spettro tutto quello che sente, con parole povere. Sì, sono capa. È interessante. È la situazione, poi già ti ho detto, quando capita avremo modo di magari sentirci più da vicino, anziché qua in radio, magari fare delle cose visive, dal vero, che sarà più semplice farle vedere che spiegarle per telefono. E una domanda, siccome questi molti lo interfacciavano per dire se andavano all'estero per dire dall'altra parte dell'Italia, e utilizzavano il telefono per utilizzare la radio, per dire se a Milano la radio a Sassari e tu la comandavi col telefono, con che logica, utilizzando una linea, che come faceva? Non ho capito. No, non ho capito molto il senso, scusa. Mi stai dicendo utilizzare il telefono fisso, dici, da altre zone, oppure utilizzare il telefono per collegarti alla radio? Il cellulare per collegarmi alla radio, che logica di funzionamento avrà? Perché io ho la radio a Sassari, una radio che lo permette di fare, qualcuno lo fa, conosco gente che l'ha fatto, e va a Milano per farci un giro, prende il telefonino e lui si mette a parlare da Milano utilizzando in remoto la stazione. Sì, una volta si usava, ti dico ai primi tempi, si usava Skype per quella cosa lì, e funzionava, insomma, così, non potevi gestire l'apparecchio, però funzionava. Adesso sempre col telefono ci sono dei programmi che hanno la gestione totale dell'apparecchio, anche quello del 2000 ad esempio, se va a dire, ma tutti quelli moderni adesso, tutti gli Icon, tutti gli Aesu, i Kenwood, addirittura dietro hanno la presa di rete direttamente, e quindi li metti in rete e dovunque tu sei, o con un telefono o con un computer, che è la stessa cosa in pratica, solo che il telefono è molto più piccolo e ci vuole buona vista, e noi a questa strada non è che ce l'abbiamo, però con un computer, con scheda radio eccetera, tutti colleghi via internet, si aggancia alla tua rete ADSL, la remoto, e controlla tranquillamente la gestione radio, un po' quello che fanno adesso con Alexa e con quei programmi di domotica, ecco. E in più dirige anche la voce, niente di particolare, ci sarà ovviamente un po' di latenza. No, ma quello che voglio capire, tu mi stai parlando di radio nuove che hanno l'ingresso di rete, ti attacchi dietro, ma il TS2000 per dire, dove ti colleghi? E di lì ci vuole un altro tipo di interfacciamento, però anche lì devi seguire, quella è una cosa che io non ho fatto, perché all'epoca non mi interessava, anche perché all'epoca quando sono usciti quegli apparecchi praticamente non è che internet ce l'avessero tutti, e quindi era una cosa un po' da provare sotto quell'aspetto. Io per quello che riguarda la fonia non c'ho problemi, te l'ho detto, utilizzo un network e da lì riesco a comunicare praticamente dove voglio, perché è interfacciata alle radio, ma le mie radio, ad esempio l'Itera, se tu le colleghi a un USB sul computer immediatamente tappa la scheda di rete, ti genera una scheda di rete virtuale. Quella scheda di rete può essere con appropriate configurazioni mandata sulla rete non solo locale ma anche fuori, quindi puoi utilizzare l'apparato per fare tante cose, ecco, per essere comandato, per essere gestito, come dici tu, però insomma apparati professionali. Per gli altri oramai, ripeto, per quelli moderni lo fanno un po' tutti. Per quello lì c'è il controllo remoto, però non me lo chiedere com'è la versione. Guarda, ce l'aveva l'altro, quello inferiore, come si chiama, c'era il TS2000 e l'altro con frontalino staccabile che ho avuto. Quello c'ha proprio il programma da remoto per fare quello che dici tu. Ma perché è un amico carissimo radioamatore, lui ce l'ha il 2000 e lui lo utilizza frequentemente, addirittura poi quello che hai detto tu per i satelliti, continuamente lo utilizza per quel satellite Catariotta, eccetera, eccetera. Utilizza proprio il TS2000. Mentre col Barrett, quel discorso che stiamo facendo adesso, si può fare automaticamente o non lo permette? No, ho capito, per il Barrett, quello azzurro, con l'apparecchio azzurro. Per quello c'è una concezione ancora a livelli di seriale, se non tanto. Quella razza di apparecchi lì c'ha tutto loro, nel senso che funzionano col programma loro, funzionano con i sistemi loro, eccetera, eccetera, eccetera. Di lì, tanto è vero che chi ce l'aveva lì ha messo quella presa, certamente, per usufruire di trasmissioni dati, diciamo, a velocità classica, ecco, non molto elevata, ma classica, funzionale, perché probabilmente c'erano difficoltà ad avere i programmi, che ovviamente sono molto costosi, per interfacciare quell'apparato ai sistemi suoi, ecco. Se tu lo guardi bene, quello lì può anche telefonare, però può interfonare con l'accessorio in dotazione, non lo so, uno per fare questi lavori quanto le convenga spendere quelle cifre che si usano per quegli apparati, ecco. Infatti ho visto c'è anche il telefono, il GPS, quello c'è una marea di funzioni ed è anche abbastanza, come dimensione non è esagerato, una radio di dimensione molto molto limitata, eppure è completissimo, visto. Magari è un po' macchinoso da utilizzare con questi tasti, non dico a sfioramento, ma quasi. Sì, roba. Guarda, io ho anche l'altro, il Motorola, lo stesso, che anche lui ha dei tasti per cui è stato obbligato, per cui puoi attivare determinate funzioni, la funzione ALE, la funzione di controllo di banda, però insomma è per usi professionali, ecco, no? Per fare altre cose oramai ci sono apparati, ripeto, tipo quelli della Icon, della IAIS, che hanno già praticamente tutto e ti sbizzarrisci come voi, tra l'altro costa anche poco, c'è un apparato che è formidabile, che è il 7003, molto molto molto economico, che però è da paura, per quello che ci puoi fare. Sì, l'ho visto, e poi c'è tantissimo, e per questo trovano meno di 1000 euro, l'ho visto intorno ai 980 euro, una bella radio, solo che cosa la vedo troppo piccolina, quello è proprio da interfacciarlo direttamente sul monitor, secondo me. Sì, c'è il programma, anche lì bisogna stare attenti, perché bisogna prima informarsi quanto costa il programma, stiamo parlando credo di 70-80 euro, quindi delle cifre per un programmino un pochettino esagerate. Non so se ci abbia la gestione anche, porca miseria non mi viene il nome, quello dedicato ai radioamatori, c'è un nome, vabbè non me lo ricordo, però c'era la funzione, questo programma, di gestire vari apparecchi e varie modalità di trasmissione, però non mi viene, Vabbè, il più completo comunque, te l'ho già detto, è molti PSK per le trasmissioni digitali, ecco. E invece per il discorso come si faceva a bassa, come si chiama, a bassa velocità delle TV, qualcuno si sta ancora riverdendo delle immagini? Sì, nei canali alti sì, ogni tanto ti mandano foto di uccelli, poi non ho capito perché proprio uccelli, uccelli esotici con la scritta CQ poi c'è il nome nativo, e sono sui canali tipo 27 490, una cosa del genere, ecco. Ed è SSTV proprio, è quel programma, e ti ho detto, infatti c'è anche quella. Guarda, adesso non te lo posso avviare, però ti posso dire che penso che ci abbia almeno una ventina di sistemi di cosoli di decodifica. E quello sono tutte belle sperimentazioni. A me me l'hanno dato un apparecchietto vecchio, un altro radioamatore, ma che lo usavano negli anni 80, che facevano queste trasmissioni di immagini a bassa definizione utilizzando la banda, le bande, adesso non so che banda utilizzavano, questo non te lo so dire. Ce l'ho ancora conservato, una specie di computerino, dai, quelli proprio primitivi. No, non li utilizzate questi computer primitivi, vanno bene per la programmazione dei vecchi apparati, quelli molto vecchi, Motorola eccetera, però non utilizzate un computer anche di seconda mano. Guarda, ci sono degli HP a 230 euro che sono piccolissimi e formidabili, resistentissimi e velocissimi con i 5, quindi possono gestire tutto quello che c'è in radio senza problemi. Puoi anche fare ascolto anche in DMR, figurati, c'è un programmino che automaticamente ti decifra tutto il digitale, che c'è per tutto il digitale, intendo che decifra il distan, PS25, il P25, Atlas, una cosa del genere, poi le varie modalità DMR, insomma, è sempre lo stesso sistema, non cambia niente. Se tu vuoi qualcosa di extra, non devi fare altro che cambiare diciamo, o il programma o il sistema lì di ricezione. Ad esempio, vuoi ricevere gli aerei che sono sulla 137 spiccioli in digitale, e di lì ti apparirà una cartina in cui ci sono tutti i dati di volo e così via. Le navi c'è un programma che si chiama Ship Plotter, dovrebbe essere gratuito, quello lì c'è le tracce, quando c'è preparazione di spaventi, io ricevo mezzo Mediterraneo quando c'è preparazione, e c'è la posizione, il tipo di nave, la velocità e l'età cosiddetto, quindi l'orario d'arrivo e tutte queste belle cose. E questo tutto con una radio, con quella famosa e preziosa presa ACC. Sì, è molto interessante. Sì, stamattina proprio ne ho visto uno, siccome ne voglio mettere qua in radio, uno di quelli fissi, cioè questo qua lo sta vendendo a un prezzo quasi ridicolo. Guarda, ti dico che cos'è, però è un apparecchio, magari non sarà nuovissimo, è uno di quelli professionali per uso continuativo, PC fisso, Intel Core 2, è 4005, 4 GB di RAM, DDR 2, SSD, più al disco Windows 8.1 rosso. Questo è della Fujitsu, bello PC fisso della Fujitsu, serie Esprimo, rosso, dotato del processore dual core Intel 2 da 4005, 2 giga di frequenza, 4 giga di memoria RAM DDR2, SSD da 64 GB, con il suo interno Windows 8.1 disco Fessin ha configurato meglio più un disco secondario da 80 GB, un lettore DVD, se volete un PC compatto, robusto, estremamente silenzioso, le ventole interne sono di qualità e progettate per durare nel tempo senza creare fastidiosi rumori di fondo, veloce, Windows carica in poco tempo e tutti i programmi si aprono all'istante, affidabile ed economico. Allora questo è il PC che fa il caso vostro, le temperature sono sempre basse tutto l'anno e tutti i componenti sono stati ripuliti accuratamente da eventuali residui di polvere. Windows è configurato per fornire le massime prestazioni, tutti i driver sono aggiornati e sono presenti alcuni programmi utili per aprire tutti i tipi di documenti, PDF, cartelle, compresse, più comunemente utilizzate, possibilità di aggiungere una chiavetta wifi nuova con garanzia da 300 MB per secondo, placcata in oro a 7 euro. Dimmi il prezzo di questo giocattolo. 45 euro. Beh, è buono. Il mio che è un HP, che c'ha però un i5, non so se mi spiego, è 8 giga di memoria, ho pagato 220 euro in garanzia anche. Ed è riciclato, la serie ripulito, eccetera. E si parla sempre di sistema operativo Windows 10, Windows 8 te lo sconsiglio vivamente perché non è più supportato da Microsoft, stanno già pensando, anzi fra poco c'è Windows 11, figurati, quindi è una cosa, il sistema operativo te lo devi cambiare lì. Niente. Sì, no, assolutamente, d'accordo per quel sistema lì, d'accordo. No, quello che voglio dire, questo qua mi sembra interessante, perché tutto, vabbè, Fujitsu è uno dei prodotti, cioè prodotti di qualità, costruiscono i processori, eccetera, eccetera, perché è costruito in orizzontale, non il classico case verticale, tipo un amplificatore, là, messo in orizzontale, di dimensioni sarebbe paragonabile, cosa posso dire, sarà un po' più grande di un 440, però c'ha tutte le prese facilmente raggiungibili, non è di quelli verticali, questo lo puoi mettere tipo cassetto, infilato, come si chiama, come lo usi con un apparato, dai, non mi piacciono a me quelli verticali, e tu dici questo prezzo è ragionevole. Se funziona, sì, se poi non è qualche ciofecca, perché se non è garantito, poi ce lo dipende da chi lo stai comprando. Guarda, il mio che è lo stesso, devo rimesso a posto, eccetera, eccetera, è rigarantito, ripeto, un HP, quindi una marca di assoluta sicurezza. È grande, esattamente quanto, forse più piccolo del baracchino che sto usando. Immagino un baracchino, penso un Midland 68, ecco, questo è più piccolo probabilmente. No, questo mi è interessante perché lo vedo, tipo quelli che usano le banche, apparecchi robusti, almeno c'è, mi sembra una cosa, almeno esteticamente, poi non so se sia funzionale, non lo so, fatto tipo un cassetto, cioè presente una cosa così, tutto a portata di mano, poi dietro c'ha le connessioni, cioè per dire, non è il classico quelli montati in case in verticale, come tutti i PC, però ti è presente, i computer qua ne abbiamo diversi in casa, però sono tutti più portatili, non volevo mettere uno fisso qua, però da spendere il meno possibile. Con queste prestazioni ce la fai a fare quel lavoro che abbiamo detto prima. Dimmi che processore ha? Qua, dual core Intel, Intel Core 2 è 4005 con 2,2 giga di frequenza, 4 giga di memoria, DDR2, SSD da 64 GB con suo interno Windows 8. Deve essere una cosa vecchissima, guarda, forse un chilometro, 10 anni fa, 10-15 anni fa anche, sono pure 20, i due siamo già, abbiamo già scavalcato l'i4, guarda, sono gli octa-core già per i telefonini, figurati, per da 8 a 2, insomma c'è una bella differenza. No, no, ma naturalmente si vede che è una cosa vecchia. Se bastano le caratteristiche di velocità di questo processore per fare quei discorsi che abbiamo fatto prima. Guarda, ci sono due discorsi da fare. Il primo è che quelli un pochettino più recenti sono molto più schermati, proprio in previsione di un utilizzo in ambienti che non debbano disturbare. Quindi quello lì non lo so se quando lo accendi praticamente ti trovi tutte le HF piene di armoniche e cose del genere. Tieni presente che stai collegando un computer alla radio sia dalla parte di ricezione sia dalla parte microfonica, e quindi se il computer non è fatto veramente bene, non è una cosa affidabile, corri il rischio di quando vai in trasmissione magari ti porti appresso il rumore del processore, il rumore della ventola, e chi più ne ha più ne metta, capito? Il problema è quello. Qua stiamo parlando di cose serie che ricevono in maniera la più pulita possibile, soprattutto non devono disturbare, quindi è vitale la schermatura, i collegamenti certi, diciamo, con la calza, massa e tutte quelle belle cose lì, perché è molto probabile che se no quando fa trasmettere il segnale sia sporco. Sì, quindi quello è una cosa da tenere in considerazione. Assolutamente sì, a meno che non devi solo ricevere, ma poco ci credo che poi quando uno fa quelle cose non sia tentato dal trasmettere. Comunque tu dietro ho in dotazione, adesso non ricordo, ci dovrebbe essere il famoso spinotto ACC che ha una marea di pin, e quelli che ti interessano i pin sono il pin del PTT, pronta nella trasmissione, il pin di ricezione audio a 1000 o a 1200 o a 9600, non mi ricordo qual è il più funzionale in questo caso, che sono due, poi il pin di trasmissione, quindi quello che va diciamo alla parte trasmittente, quindi sono uno, due, tre, dovrebbero essere tre fili praticamente, tre fili più la massa che ti interessa, quindi sono solo quattro fili. Allora io con la spina adesso mi credo se ho utilizzato la CC1 o la CC2, ho utilizzato il segnale di bassa frequenza, quella 200 mV, e l'ho attaccato a un analizzatore di spettro audio e a un indicatore di livello che mi dà l'indicazione quando voi mettete se il segnale audio è basso, il microfono, dicono alfa, passa, ci sono dei valori preimpostati, prestabiliti, per cui ti conosce già in saturazione, c'è il limite rosso, c'è quasi arrivato, e poi c'è l'analizzatore di spettro audio che mi dice se è carente di acuti oppure se è troppo attenuato di bassi, eccetera eccetera, a livello. Ho utilizzato quell'uscita lì, è un 8 poli mi sembra che sia, adesso non mi ricordo, e tu mi dici che quella presa lì ci sono delle uscite utilizzabili per fare questo lavoro. Assolutamente sì. Guarda che ricordate una cosa, nelle trasmissioni, comunque se siano, che interessano RTT, PSK, etc. La cosa più importante è andare direttamente in trasmissione, cioè nel circuito, no? In cui c'è di una radio, in cui c'è il microfono, un modulatore, eccetera. La cosa ideale sarebbe sempre andare dove c'è l'accesso al modulatore, quindi quella parte che praticamente c'è il ricevitore vero e proprio, poi c'è il trasmettitore vero e proprio, poi il modulatore e il microfono. Ecco, tu devi stare in mezzo lì all'uscita radio vera e propria del ricevitore, quindi senza interessare il modulatore, che quello ti fa distorsione a Google. Stessa cosa per la ricezione, è quella presa che ha anche un modem interno, fa proprio quello, capito? E ti permette di andare anche in packet, sempre con lo suo programmatore, e ricevere ovviamente anche in packet e con tantissimi altri sistemi. L'importante è che il collegamento sia fatto bene, con attenzione, con i parametri giusti, ecco. Ma ripeto, è una semplicità disarmante. E no, sto guardando qua il pannello posteriore 2000, la CC2 c'è scritto si abbina a un connettore DIN maschio a 13 pedini per il collegamento di varie apparecchiature accessoriali, quale un TNC, un MCP e se no un terminale LTTY. E poi c'è questo key paddle, key è per il tastino, e paddle non so cosa voglia dire, aspetta, numero 3, prese key paddle, presa paddle, si abbina a uno spinotto a 3 conduttori da servire per collegamento ad una paletta per manipolare il manipolatore elettronico interno, la presa key si abbina allo spinotto, vabbè, questo per il CW. Sì, c'è scritto paddle, c'è scritto così, quel manipolatore a doppia leva, capito? Non è un tasto vero e proprio, sono due tasti che muovi con le mani, con due dita, destra sinistra, a posto di essere premuto sono laterali. A chi piace la più velocità, eccetera eccetera, guarda, tu potresti anche fare un esperimento per avere l'idea di cosa stiamo parlando, proprio banale. Sicuramente adesso il TS2000 dovrebbe avere una presa cuffie, giusto? Penso di sì. E poi dietro c'è questo connettore tipo un connettore microfonico, sembra, non microfonico, scusate, telefonico. Collegare a questo connettore un cavo proveniente dal pannello remoto opzionale, si può mettere anche un pannello remoto. Sì, quello lì non me lo ricordo cos'era, però per dire, se tu vuoi iniziare a ricevere qualcosa che non occupi bande, larghezza di banda troppo dure per il passaggio, diciamo, su quel tipo di presa, sulla presa, credo sia quella recorder, non so se ce l'ha lì, quella recorder, o quella cuffia, anche se ti toglie l'audio, però la potresti fare entrare, dato che è anche schermata, quella, direttamente all'ingresso, linee ING, sarebbe la presa di colore, dunque quella arancione del computer e quella per il microfono, poi di altro colore dovrebbe essere la linea audio, andrebbe bene anche il microfono, solo che lo devi attenuare, e da lì puoi già iniziare a ricevere, quindi figurati quanto è complicata la cosa. Sì, ma poi sto guardando le apparecchiature delle TC, questo MCP non ho capito cosa sia, cos'è un'interfaccia? Sto andando a memoria, no? L'MCP è un programma che serve per la gestione delle memorie del TS2000, credo che si chiami MPC2000, infatti, se tu devi fare il backup delle memorie, te le scarichi con quel programmino e sei tranquillo, soprattutto nel caso dovessi andare in manutenzione, se lo rasetti, eccetera. Allora, ci sono 13 piedini nella CC2, la prima uscita a alta frequenza dal subricevitore, l'uscita 2, emissione tasto RTTY, numero 3, uscita a F dal ricevitore principale, 4, massa, 5, controllo di squelch, numero 6, nessun collegamento, numero 7, controllo di squelch del ricevitore secondario, 8, massa, 9, controllo di linea PTT, poi 10, nessun collegamento, 11, ingresso audio microfono, 12, massa, 13, comando PTT. Quanti ce ne sono di questi PTT? Potrebbero essere due, perché di norma uno è il PTT microfonico, è praticamente lo stesso, il secondo è il PTT data. Cosa succede quindi? Che quando tu trasmetti col data, praticamente esclude la parte microfonica, quindi microfono, eccetera, eccetera, in modo da evitare tutti quei problemi che ti dicevo prima, che si senta la voce anche magari su un ambiente rumoroso dell'operatore o queste cose qua. Quindi una di quelle prese PTT esclude automaticamente il microfono. L'altra invece serve proprio come microfono, per un eventuale microfono posteriore, probabilmente, perlomeno, quelle che conosco io sono così. Ma queste prese a CCC sono tutte standardizzate per gli apparati per dire Kenwood o sono uguali anche per ICOM e IASO? Magari fosse così, ma quando mai c'è qualcuno che in quel campo che standardizza? Ognuno fa il suo minestrone, no? E ci mette quello che le pare. Infatti la cosa brutta è quello lì, perché poi ci sono, tipo quando è uscito quel telefonino, ogni telefonino aveva il suo caricatore. Adesso meno male li hanno standardizzati, a parte la Apple, che forse anche la Apple si riesce a metterli nello stesso modo di quelli che utilizzano adesso. Che poi parlano di Apple, Apple ma sta scendendo, stanno scendendo, perché tu devi vedere i problemi che hanno certi PC a collegarsi a delle reti un po' diverse, wifi, oppure a delle reti cablate, perché oramai sono talmente fini che utilizzano quelle schede di rete USB, no, che si attaccano, dedicate proprio all'Apple, eccetera. Un casino che non ti dico. Sì, ma a parte che costano una barca di soldi, cioè ultimi prodotti niente da dire, però sono sempre troppo cari secondo me, considerando l'industrializzazione del prodotto, cioè sparano delle cifre spaventose. Sì, guarda, se proprio vuoi una cosa robusta dovresti comprarti un Datron, credo che si chiami così, Datron, la marca. Di cosa stiamo parlando? Di computer? Sì, computer portatili anche. Sono quelli a livello tattico, se puoi anche sparare, hanno il coperchi, c'è l'involucro rinforzato in magnesio. Guarda, io il computer ne ho un paio, della Acer, della HP a casa, ne abbiamo un po' di tutti, e non detto da me, detto da chi ci lavora proprio sui computer, li ripara, fa, c'è gente, ingegneri nel senso, che fanno dei lavori importanti, ha detto i migliori computer in assoluto sono, parliamo a livello di qualità, sono i Toshiba e i Fujitsu, sono gli unici prodotti che producono tutto loro, al contrario di tutti gli altri che sono tutti sul progetto, per dire dammi il processore di quello, dammi il componente di quello. Gli unici due prodotti al mondo che costruiscono tutto, dal condensatore a cosa, prodotti da loro, sono la Toshiba e la Fujitsu. Neanche la Sony e Panasonic che hanno tutto di produzione propria, mentre la Fujitsu, io quello che c'ho io, che ce l'ho da tanti anni ormai, è vecchio, però non ho mai avuto né problema di nessun genere. Un Toshiba, quando l'ho preso costava anche un pochettino, sta sempre andando, adesso è lentissimo, vedrai, non vale più niente, però non ho mai avuto problema di nessun genere, né di batterie, né di riscaldamenti, di niente, di alimentato. Gli altri più o meno qualche colpo l'hanno preso, c'è anche un vecchio Apple, allora la Macintosh della cosa, un Acer che lo stesso funziona rischiatamente anche se della guerra mondiale, però ti posso dire questi Toshiba e Fujitsu sono eccellenti. Non è esattamente così come ti hanno detto, metterli al numero uno penso che non ci penserebbe nessuno, perché ci sono altre marche, guarda, la più quotata in campo un paio d'anni fa, prima che anche quella scendesse, era l'IBM Lenovo, quelli proprio che erano top, poi anche quelli sono un po' coricati. Quelli che ti ho detto io, tipo la Datsun eccetera, c'è anche l'HP, poi c'è anche l'Acer, non me lo ricordo se li fa, fanno in quel campo lì degli apparati che hanno dentro la qualità, poi che il condensatore te lo faccia la Mitsubishi, quelle case lì o qualche altra casa, l'importante è che il prodotto sia di altissima qualità, ecco. Perché se mi dice già che fabbricano tutto loro, mi metto più di un punto di domanda, perché lo sai benissimo, anche la Fiat fa molte cose, ma molte cose non sono superiori a certe altre, quindi è meglio avere componenti diversificati e di eccellente qualità che prodotti della stessa marca, che magari uno va bene, l'altro va un po' meno bene. quindi è così, quella marca che ti ho detto, non la Datron, Datronic, una cosa del genere, fa computer specifici proprio per utilizzi severissimi, proprio buttati per terra, nella sabbia soprattutto, al calore estremo, solo che hanno costi particolari perché sono per operazioni particolari, sono dei tablet anche fanno, ma devi vedere che roba. Sì, non lo metto in dubbio, però ti ho detto una cosa importante, ha detto sicuramente se tu prendi un condensatore marchiato Toshiba ce ne sarà un altro migliore sicuramente, però non è detto che quella ditta, l'HP o la Lenovo utilizzi il topo di tutti i componenti, sarebbe impensabile e costerebbe troppo, però parliamo qualitativamente, i Toshiba e i Fujitsu sono ottimi. Io ti faccio solo un esempio, quando è uscita la PlayStation, non so se era la 2 o la 3, se non mi ricordo, diversi anni fa, la Sony si è fatto costruire, all'epoca era il processore più potente del mondo, si è fatto costruire dalla Toshiba, i pannelli dei TV, adesso c'è la LG che ha schiacciato a tutti, e la Samsung, all'epoca c'erano le brevetti della Toshiba sui pannelli, sui monitor, che nessuno si avvicinava, naturalmente la Toshiba non c'ha gli investimenti che può fare la LG e la Samsung, perché ormai sta decadendo, però sui processori e sulla componentistica elettronica, solo la Matsushita riusciva a starle vicino. Lo so, ma ce ne sono anche altre di aziende meno note, ma di nicchia, perché non tutti sono interessati al settore della grossa consumazione, alcune sono interessate a determinati settori che rendono molto di più, perché lì ti puoi permettere di vendere un computer anche a 5.000, 6.000, 7.000 euro, però quelli lì vengono timbrati, ecco, certificati, lo butti in acqua e sopravvive tranquillamente. Quindi il costo è derivato proprio dal fatto che non si possono neanche aprire, in parole povere, perché sono anche antiacqua. Quindi tutto lì. Ok, chissà se c'è Claudio, ne ascolto. Claudio. Salve, sto mangiando l'altra parte del maiale, è iniziato dalla testa e sta scendendo giù. Quando arriva la coda, non riesce a alzarsi dalla sedia. Aspetta che io mi apro un pochino, avevo chiuso la ricezione perché questo apparecchio, chissà perché, fa una specie, si sente il QRM a differenza degli altri, molto, come dire, un po' strano, dai. Ma questo è sempre il presidente? Sì, questo è sempre il presidente, ti ho detto che è un peccato utilizzare gli altri per questi scopi, quindi questo va bene, mi sembra che vada bene, fa il suo dovere, non scalda, non ci sono ventole, non c'è niente, no, anzi non scalda una parola grossa, già scalda lo stesso, però sai, se ti parte questo apparecchio chi se ne frega, lo butti nel cassonetto. Gli altri invece sono più, come dire, diciamo più preziose, perché sono tutti collegati al computer, nel frattempo possono fare altri servizi. Niente, questo è ausiliario, mi parlo per fare. No, è nato per fare questo tipo di lavoro, per cui tanto di cappello, ottimo in tutti i sensi. Naturalmente non sarà un apparato di categoria superiore di quelle che hai nominato tu, però nella banda cittadina ben pochi apparati riescono a stare vicino. Non so se tu l'hai mai fatto sentire il 7003 qua in 27, se ti è capitato di farlo funzionare. A voglia. Dicevano che c'era un problema di potenza di sviluppo sulla banda laterale, il che poteva dare problemi ai lineari, però come missione è eccellente. Poi c'è un prezzo, per essere un ICOM, c'è un prezzo assolutamente da prendere, ecco. Da stare attenti, perché purtroppo anche lì, vedi, anche la ICOM si è fidata, evidentemente le è capitata una partita di monitor, di display praticamente difettosa, che dopo un po' di tempo ti fa delle righe. Però quello è in garanzia, perché questi apparati, se non ricordo male, ti davano 2 anni di garanzia, qualcuno anche 5. E dal punto di vista funzionale, essendo un SDR quasi puro, è una cosa formidabile. Da Mattana ha tantissimi apparati di vecchia concezione o precedenti, come preferisci, meno più costosi anzi. Ah, ma quello che voglio capire è già aperto di natura, se tu vuoi andare sugli 11 metri o devi fare ponticelli o cose strane per farlo funzionare? Guarda, quello non te lo so dire, ma la cosa è banale, perché proprio da fare, credo, il solito ponticello con i diodi è una cretinata. Quello va da 70 MHz, perché c'è anche 70, fino, credo che trasmette anche in onde medie, quindi trasmette molto in basso. Se vuoi farti una broadcasting lo puoi utilizzare. La potenza è, come ti dicevo, da regolare bene, c'ha tanti parametri per tutti i gusti, insomma è regolabile a destra, a sinistra, in alto e in basso, sia in trasmissione che in ricezione. Dal punto di vista delle tonalità c'ha anche la funzione di registrazione. No, ma quello che volevo dire, tu mi hai detto, l'hai provato il 27, e funziona egregiamente o è molto penalizzato come molti apparati di quei livelli? Ma da quello che leggevo delle recensioni pare che sia l'apparato più comprato da ICB. Forse perché fa tante cose e le fa estremamente bene. No, perché a me mi era capitato di sentire, però bisognava settarlo bene, apparati di un certo di livello molto molto alto della ICOM, il 7008 ho sentito, però naturalmente lì bisogna entrare in menu, equalizzazioni, larghezza di banda, eccetera eccetera, uscendo così naturale in posizione standard, che è quella che utilizzi magari per andare in altri tipi di frequenze, non era un granché, cioè rispetto a quello che poteva essere usandolo per dire 40 metri o altre cose in banda laterale. In AM dice che non rendevano più di tanto, al contrario per dire di un vecchio apparato della Kenwood, un 440, un 140, un 180, in 27 non c'era differenza rispetto ad altri tipi di frequenza. Guarda, non vorrei dire una fesseria, ma in AM, se non sbaglio, non c'è il compressore, ecco, proprio perché c'è un concetto di apparato che deve uscire non come nella CD sparato, eccetera, eccetera, ma proprio una voce comprensibile senza disturbi ambientali, diciamo così. Come ricezione dovrebbe essere favolosa, perché è estremamente curata nella parte proprio dell'audio e di quelle cose lì. Sì, sì, vabbè, sono fatti per altri tipi di emissione, non certamente in AM, in 11 metri, quello è normale, però quello che ho sempre notato dalla Kenwood, al contrario di tutti gli altri, AESU, eccetera, eccetera, anche in banda AM, cioè in modulazione di ampiezza, e in 11 metri, forse non ce ne sono altri di apparati che escono così bene. Sì, ma perché, ripeto, questo qua è un apparecchio di ultima generazione, si può considerare, anche se c'è da qualche anno, e in più è uno di quegli apparati che ti dicevo che c'è la possibilità di essere interfacciato tramite computer e di lavorare senza bisogno di interfacce. È un appendice, il computer è un appendice sua, sono entrambi fortemente cooperanti. Sì, no, assolutamente, bellissima. L'unica cosa che ho detto, vai, per te non è uno svantaggio, che è un po' piccolina, io la vedo troppo piccolina per come piacciono a me le radio, a me piacciono belle grosse, con le funzioni con i tasti belli maneggevoli, facili da usare. Per dire, TS2000, bella radio, tanto di cappello, però è tutto troppo raggruppato, sotto menu, doppi tasti, doppia funzione, eccetera eccetera. Il display è grande, niente da dire, però se tu lo paragoni per dire a una radio vecchia tipo il 940 con l'alimentatore interno, con tutto il manopolone grande, a me piacciono più quel tipo di radio. Cosa ti posso dire, l'FT1000 della Iaesu, con radio così mi piacciono di più. Poi tu mi dirai, adesso non c'è spazio, te la metti in un angolino, te la puoi mettere anche in macchina, uno di quei 7003. Sì, quello però è quello che vede l'occhio. A me interessa più quello che invece fa l'apparecchio. Tieni presente che stiamo parlando innanzitutto di un apparecchio touch screen anche, e quindi accidenti che sta cadendo, aspetta se riesco a fare danno, se riesco a non fare, mi sono incastrato in quegli occhiali tecnici per microprocessori, accidenti recuperati, se non si spaccano le lenti. Dicevo, c'è un touch screen da cui comandi tutto, c'è un menu elementare perché le cose ti appaiono come in un telefonino, lo schermo è grande, quindi puoi fare tutto, perché è una nuova concezione di radio. I tasti, a differenza del 2000, ci sono, ma non sono tantissimi, perché nel 2000 ti perdi. Qua invece sono raggruppati bene, spesso non li usi mai perché c'è il touch screen, quindi come apparecchio penso che non mi possa dire niente. No, niente, tanto di cappello, cioè dovendomi comprare un apparato probabilmente mi comprerei quello lì, perché qualità prezzo è numero uno, non ce n'è nessuno che riesce a competere per quello di prezzo. Stiamo parlando di 1000 euro nuovo, una radio anche meno di 1000 euro, c'hai una radio assolutamente performante con tutto che puoi fare, cioè per avere meglio di quello devi spendere il doppio secondo me. La radio più bella esteticamente di questa nuova generazione, che è uno spettacolo solo a vederla, è 990 della Kenwood, secondo me la più bella di tutti, e forse è stata la prima che ha utilizzato i touch screen, questi schermi grandi con tutte le funzioni al tatto. Per me è la più bella di tutti, parlavo, adesso non so se ne sono uscite evoluzioni, però all'epoca era la più bella in assoluto, il 990 della Kenwood. Sì, ma c'è anche quello superiore al 7003, credo sia il 7006 dell'Icon, adesso non ricordo, e praticamente è come se fossero due apparati. Tieni presente che questi Icon, gli ultimi usciti di quella linea lì, perché è una linea particolare, diciamo così, l'analizzatore di spettro che c'hanno è in real time sul serio, e non è che si vede il segnale dopo 2-3 secondi, è proprio in real time, quindi stai vedendo qualcosa di assolutamente reale, e considerando i tempi di elaborazione che ci vogliono per fare della larghezza di banda così grandi, perché sono grandi, insomma non è da tutti, ecco. Quindi mi meraviglia anche che il prezzo sia sceso, ma dubito che qualcuno ci abbia da ridire, perché se ben ti ricordi anche col 2000, tante polemiche, poi è stato sempre un apparato eccellente, ne sono stati venduti tantissimi, e del 7003 è già un livello di vendite veramente da paura. Sì, infatti è quello, e sono contento che hanno messo un prezzo basso, in modo anche la concorrenza si dia una regolata, perché tu non puoi spendere 6-7 mila euro per un apparecchio. Il 7008 quanto costa? Quello Iaesu, l'FT2000, l'altro non so che cacchio di modello, hanno cifre spaventose, 5-6 mila euro per pagare un apparecchio ottimo, massimi livelli, topo di gamma, ma costano una cifra esagerata, considerando la, non dico la tecnologia è un altro pianeta rispetto a quella di 10-15 anni fa, però se tu prendi un 9,40 e guardi quello che c'è dentro e ti metti a costruirlo adesso, paragonato ai prezzi che ci sono adesso di questi apparati HF di topo di gamma, non ti basterebbero 30.000 euro secondo me, se dovessi considerare la quantità di componentistica che c'è. Adesso, considerando che non c'è niente, fanno tutto delle schede uniche, fa tutto, un processore super veloce, un computer all'interno c'hai, per cui i prezzi secondo me sono esorbitanti. Tu mi dirai, c'è tutto lo studio, la tecnologia, l'ingegnerizzazione, però c'hanno delle cifre spaventose. Sì, non c'è dubbio, sono comunque, rimangono degli apparecchi come dire commerciali per grandi consumatori, ecco, per popolari, nazional popolari, di qualità indubbiamente molto elevata. Probabilmente sono, avendo un touchscreen, sono anche delicati, però tutto sommato valore prezzo qualità è indubbiamente vantaggioso come ora, e soprattutto c'ha tante funzioni che altre non c'hanno. Seguivo proprio dei forum in cui si parlava sia del 7003 rispetto all'altro, che non so se sia più piccolo o più grandetto, comunque allo Yaesu la sigla non me la ricordo, ma è quello che lo stesso c'è un touchscreen, e a quello ne hanno detto pezze e corna.